Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Impiegato di settima. Scrivanie in mogano, poltroncine in scaio finta pelle, telefono pianta di ficus, simbolo del potere. Impiegato di quinta. Lampada di opalina, piano di cristallo, naif jugoslavo alla parete, due piante di ficus. Impiegato di prima. Quattro piante di ficus, tre telefoni, dittafono, sei quadri naif, tappeto e moquette per terra. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza, vale a dire serra di piante di ficus e poltrona in pelle umana, quando la fortuna voltò rovinosamente le spalle al semenzara. Onorevole Francesco Boccia, buongiorno. E lei che rovinerà la carriera ai fantozzi dirigenti? Buongiorno, non sarà lei. Tutti parlano però di tagli agli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione e della loro riqualificazione, anche dei manager pubblici. Lei ha fatto una proposta di legge. Qual è la novità della sua proposta? Ma intanto superare i limiti della Corte Costituzionale, che ha bocciato finora una serie di proposte che ci sono state nel nostro Paese. E poi tagliare soprattutto gli stipendi molto alti e consentire dentro il pubblico impiego una redistribuzione delle risorse che, per la verità, va fatta in tutto il Paese. Ecco, ma è vero che i nostri dirigenti pubblici guadagnano più di tutti gli altri in Europa senza un controllo di qualità del loro lavoro? La parte più alta sì, è così. Noi abbiamo l'85% dei dipendenti pubblici, intanto, che non sono dirigenti. Di quel 15% dei dirigenti, la parte più alta guadagna davvero molto di più della media europea. Ecco, ma per i manager pubblici varrà la stessa regola? Oggi dovrebbe uscire il tetto, insomma, no? Mi auguro di sì, con una parte variabile però consistente, perché è inutile illudersi, i bravi manager pubblici sono contesi dal privato e se li paghi poco vanno via, ed è giusto dargli una parte fissa uguale per tutti e la parte variabile legata ai risultati. In Italia invece i risultati spesso vengono... Sì, però bisogna che siano certi i criteri di valutazione dei risultati. Perché... Beh, nelle aziende pubbliche contano gli utili, lì c'è poco... C'è poco da scherzare, se fai utili ottieni risultati, se perdi vai a casa. No, però invece fra i dirigenti pubblici in Italia, che sono 280.000, uno ogni 11 dipendenti contro uno ogni 33 dipendenti per esempio della Francia, tutti, quasi tutti, ricevono quel 30% di stipendio variabile legato ai risultati. Quindi sono tutti bravissimi, non c'è niente da cambiare. Ma infatti in quel caso è un finto variabile. È un sei politico che è anche il risultato di pesanti errori fatti dalle stesse organizzazioni sindacali che oggi ammettono quegli stessi errori. Cioè una difesa cieca di privilegi corporativi. Quando si dà a tutti qualcosa e non si è dato alla fine a chi merita quello che era giusto dargli. Ecco, ma esattamente chi cadrebbe sotto la sua mannaia se la sua proposta di legge fosse diventasse legge? A partire per capire bene, tutti coloro che sono dipendenti pubblici che guadagnano dai 70.000 euro in su. Chi guadagna 70.000 euro darebbe, perché è un contributo triennale, solo il 3%, c'è una fascia ogni 3 punti, chi guadagna più di 180.000 euro lascerebbe sul campo della tassazione oltre il 16%. Ecco, il problema numero uno però resta sempre quello di premiare meritevoli, escludere incapaci e fannulloni, no? Non c'è dubbio, ecco. Escludere i fannulloni dipende sempre dal datore di lavoro, nel caso della pubblica amministrazione il datore di lavoro è la politica. Ecco, allora stiamo tranquilli. Senta, il ministro dipende da quale leader. Politica? Allora, parliamo di politica, il ministro Marianna Madia dice che bisogna assolutamente sostituire tre anziani con un giovane neoassunto, si risparmierebbe, si riqualificherebbe l'offerta, si selezionerebbero giovani capaci, perché questo è l'elemento da introdurre, e si snellisce la pubblica amministrazione. Quindi è quella la linea, insomma c'è una coerenza di proposte? Con la mia proposta si consente al ministro Madia di accelerare questo processo. Poi certo i giovani che entrano devono essere giovani selezionati. Io vorrei che iniziasse una volta per tutte una stagione di concorsi veri, trasparenti e veloci. Si possono fare in 60 giorni i concorsi, siamo l'unico paese d'Europa che fa i concorsi in un anno. Si possono fare in 60 giorni con gli strumenti moderni che abbiamo e si possono selezionare i migliori giovani che ci sono. 60 giorni perché come si fa? Me lo dica tecnicamente, perché vediamo dei concorsi infiniti noi. Ma sì, perché trovo folle che debbano esserci aule con 10.000 persone dentro. Molti test possono essere fatti in rete con meccanismi di controllo e di rigore molto alti. Sì. E poi inutile fare una commissione, si possono fare 20 commissioni, 30 commissioni che fanno gli orali. Non capisco perché in alcuni contesti una commissione debba esaminare 10.000 persone. Senta, intanto reggerà l'accordo Berlusconi-Renzi? Guardi, io me lo sì auguro... o no, mi dica sì o no. Io penso di... Guardi, è difficile per fare una previsione su questo tema perché Berlusconi... Mi dica la sua di opinione. Guardi, io penso che quell'accordo alla fine non regge perché Berlusconi ne ha fatti sempre saltare i suoi accordi. E le riforme di Renzi però andranno avanti. Senza Berlusconi? Andranno avanti con chi ci sta. Vabbè, insomma, difficile capire chi per avere i numeri al Senato. No, i numeri ci sono, numeri ci sono senza Forza Italia e senza Movimento 5 Stelle. Io le confesso e mi auguro che le riforme profonde del Paese vengano votate da tutti, 5 Stelle compresi. Alla fine, se non ci saranno i numeri dei due terzi, perché lei si riferisce certo a questo, e decideranno gli italiani col referendum, significa che faremo una grande campagna a favore del referendum e l'ultima parola diranno gli italiani. Non vorrei che quel referendum diventasse, diciamo, un boomerang per chi si è opposto alle riforme. Senta, i tagli per trovare 10 milioni di euro da mettere nelle tasche, per poter mettere nelle tasche degli italiani di 80 euro, saranno frutti di tagli selettivi o tagli lineari? Devono essere frutto di tagli selettivi. E saranno frutto di tagli selettivi? Lo vedremo stasera, mi auguro di sì, spero di sì, io sto spingendo affinché sia così. I tagli lineari ammazzerebbero l'hanno la già nostra fatto, ripresa sì, già fragile sì, e ci spingerebbero nel baratro. E allora dove si prendono per fare i tagli selettivi? Questa proposta sul pubblico impiego è la dimostrazione di un taglio selettivo. Bastano? Non bastano, allora bisogna avere altri? Più coraggio. Io ho già detto che vanno cancellati tutti i bandi pubblici per incentivi alle imprese, basta con la discrezionalità della pubblica amministrazione o del pubblico, solo crediti di imposta automatici, investimenti, ricerca e innovazione. Insomma, lei crede che si troveranno? Dobbiamo trovare, se non li troviamo abbiamo fallito tutti. E sarà lacrime e sangue questa tutti scelta di oggi. Prevedono lacrime e un po' di sangue, però chi sanguinerà di più? E chi ha di più? Sanguina chi ha e quindi quel dica sangue chi in ha di modo... più e dica chi ha di più. Chi ha di più? Quel sangue servirà a chi ha di meno. No, questo l'ho capito, è ma chi ha più sangue, va bene, fra chi e chi? Va bene, non me lo vuol dire. C'è Secchi che le vuol fare una domanda. Buongiorno, onorevole Boccia. Ma molto rapidamente, ma non le pare che la tassazione sulle rendite introduca due elementi? Primo, è altissima, perché in realtà il prelievo fiscale è 36%. Secondo, introduce un elemento di disparità con i titoli pubblici. Cioè, non era da rimediare questa cosa. D'accordo, è da rimediare, mi auguro che non sia del 26% così come si dice, nel senso che noi abbiamo già una insopportabile patrimonialina. Sono i bolli. Sì, il fissato bollato di un tempo, insomma, e comunque arriva fino allo 0,2. Ma perché non fate una proposta su questo? Cioè, levate i bolli. È la mia proposta. Sono perfettamente d'accordo. Ho già detto che se si dovesse passare al 20 e al 26, bisogna togliere i bolli. Obbligatorio togliere i bolli, perché quello sarebbe un bel segnale per i piccoli risparmiatori, esatto, per i nettisti che quei bolli li pagano sicuramente. Tutti, chiunque. Sì, insomma, pagare 100 euro l'anno per un risparmiatore che ha fino a 50.000 euro, insomma, penso sia tanto. Butta fuoco una domanda prima di chiudere. Che altro una notazione, non le sembra un parallelo storico che si avvicina a questo punto? Stipendi alla patria, non sembra come loro alla patria? Potrebbe, sì. Sì, sì. Quindi una mobilitazione di tutti. Assolutamente sì, e se iniziamo dal pubblico impiego diamo il segnale di un paese che sta cambiando. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde, l'SMS 349 238 6666. Serate in discoteca, gite in auto blu, tinture per capelli, provole di auricchio. Si indaga su 60 milioni di euro. Chi ne deve rispondere davanti ai magistrati sono 500 amministratori di 16 regioni. Le penne griffate come regalo di compleanno, le cene con gli amici, i gratta e vinci, i completini intimi. Tutto pagato con i soldi pranzi pubblici. Pranzi e cene in ristoranti stellati, vini d'annata e l'immancabile caviale. I consiglieri lombardi hanno messo a giustificativo per i loro banchetti 2.140.000 euro. Dalle mutande euro. Verdi del Piemonte alle pecore sarde, dal rimborso di 50 centesimi spesi per l'accesso ad un bagno pubblico in Emilia agli 832 pagati per un aperitivo in Lombardia. Ondata di arresti e avvisi di garanzia nei consigli regionali di Sicilia e Liguria. Al setaccio ancora una volta i rimborsi spese dei gruppi. L'acquisto di un SUV nel Lazio, quello di un corno d'avorio in Campania. In Sicilia, in nota spese, finivano addirittura Rendi i necrologi. Contavano fatture per missioni istituzionali mai effettuate. Un trend davvero nazionale. Mentre queste notizie si accavallano, il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, dice: le regioni i costi della politica li hanno tagliati, è il Parlamento che deve dare segnali concreti in tal senso. In Campania abbiamo attuato un taglio del 50% degli stipendi dei consiglieri e quasi dimezzato i rimborsi ai gruppi. In generale, le regioni hanno tagliato dal 70 al 90% costi, benefit, diarie e spese dei gruppi. Presidente Caldoro, ma tutti questi tagli di cui parla lei, quanto risparmio hanno prodotto? Hanno risparmiato alcuni milioni di euro per le singole regioni, però bisogna fare ancora molto di più. Tra l'altro le verifiche sulle regioni, ormai tra Procura della Repubblica e Corte dei Conti, sono tutte in atto, quindi si andranno poi a definire le responsabilità. Ma un numero lei non ce l'ha in testa? No, no, mi parliamo di milioni di euro, dipende dalle varie voci. Sì. A parte i tagli, tempo fa lei ha proposto l'abolizione delle regioni, perché ha detto sono dei mini stati burocratici e inutili. Ecco, con queste regioni si è tradita la Costituzione, secondo lei? Sì, la Costituzione del 70 definiva le regioni come enti di pianificazione e programmazione, si sono trasformate in grandi enti di gestione, quindi fanno le stesse cose dello Stato e noi non possiamo permetterci di uno questi stato, costi. No, è uno Stato che diventa moderno e veloce, di avere tra l'altro molta più lentezza nelle decisioni e costi aggiuntivi. Ecco, si può recuperare lo spirito della Costituzione? Bisogna farlo subito, oggi siamo come? Di fronte, ma bisogna farlo ora nelle riforme costituzionali, non più rinviabili, quindi bisogna farlo oggi con coraggio, quindi non solo fare le province, anzi bisognava partire dalle regioni, costruire e realizzare macro regioni, quindi regioni più grandi che facciano solo pianificazione e programmazione, come nello spirito costituzionale. Ecco, quindi la proposta del governo Renzi sulla riforma del titolo V va nella direzione giusta, diciamo. È ancora troppo timida, poco coraggiosa, è un inizio ma non affronta il grande tema del rapporto Stato-Regione, non solo sulle materie, quindi cosa devi fare e chi, ma soprattutto di riformare le regioni, quindi sciogliere le attuali, superarle e fare macro aree di pianificazione e programmazione, ecco, senza bilanci. Ecco, questo significherebbe licenziamenti di massa però. No, bisogna solo distribuire quello che c'è, come è avvenuto sulle province. Riqualificare. Sulle province si può fare anche sulle regioni. Ma nella riforma della pubblica amministrazione lei è d'accordo quindi allora col ministro Madia? Ma questo è più complessivamente per lo Stato, ma la riorganizzazione del sistema della PA, quella che insomma è l'organizzazione dello Stato, va riformata non solo a livello periferico, quindi province, regione e comune, ma anche a livello centrale. Quindi una direzione giusta. Senta, ma questo vale per le regioni ordinarie, ma le regioni a statuto speciale hanno ancora senso? Anzi, prima di rispondermi, ascolti quello che ha scritto Pier Francesco De Robertis, giornalista, autore del libro La casta a statuto speciale. Casta perché è una casta che dà privilegi ai cittadini. le regioni a statuto speciale trattengono, non in maniera uguale, perché non tutte sono speciali allo stesso modo, la maggior parte delle tasse che vengono pagate su quel territorio. Il Trentino Alto Adige, quindi le due province, trattengono i 9 decimi dell'IRPEF che viene pagato lì. Leggo che in Valle d'Aosta per il personale regionale la spesa ammonta a 1.992 euro, quello della Lombardia a 20 euro. Beh, le regioni a statuto speciale, è chiaro che la spesa pro capite del personale è molto più alta, perché c'è più personale, perché le funzioni, molte funzioni che nelle regioni ordinarie sono fatte dallo Stato, nelle regioni a statuto ordinario sono fatti dalle regioni, quindi è ovvio. Lei dice però che se tutte le regioni italiane diventassero a statuto speciale, il nostro paese fallirebbe nel giro di una settimana. Perché? Ma perché se tutte trattenessero i propri soldi, allora ci sarebbero delle regioni ricchissime, la Lombardia, e ce ne sono altre che, come dire, morirebbero in una settimana, quelle più povere. Ma poi ci sono una serie di spese che sono, non sono delle regioni, ma sono del conto Italia: la polizia, i carabinieri, le ambasciate, le pensioni. Quelle lì chi le paga? Se ognuno paga le spese di funzionamento del piccolo proprio staterello. Sostanzialmente le regioni a statuto speciale andrebbero abolite, se ho capito bene. Ma sì, perché ormai sono frutto di una situazione storica che ormai non ci sono più. Quindi vanno abolite. Secondo me vanno abolite, o comunque questi privilegi fortemente ridotti. Ecco, Presidente, allora se bisogna abolire quelle ordinarie, quelle a statuto speciale, ha maggior ragione. Sì, vale per tutti. La specialità ormai deve essere superata, quindi sono d'accordo assolutamente con chi mi ha preceduto. Cioè, prima era una realtà storica, era nata in un altro contesto, e quindi bisogna superare la specialità e andare sulle macroregioni, quindi questo deve valere per tutti. E lei pensa che questo è fattibile? Assolutamente sì, non è solo fattibile, si è fatto già per le province. Bisogna riorganizzare la coesione territoriale, bisogna fare macro aree che garantiscono i diritti costituzionali, che definiscono la grande programmazione sulle risorse, ma non possono essere enti di gestione. Ecco, ma non lei possono fare la stessa cosa che fa lo Stato. Naturalmente. Fa lo Stato o le regioni. Ma lei dice che per le province è stato fatto. Beh, non è che siano tutti d'accordo sul fatto che quello che si è fatto per le province sia l'abolizione delle province. No, la verità è che si è fatta qualcosa in più. Le province sono state sciolte, andranno gradualmente allo scioglimento. Poi sono state create altri enti, e lì è stato l'errore. Cioè, fare le città metropolitane significa fare altri enti con altre poltrone, come si suol dire, dandogli altri poteri. Quindi invece di semplificare, spesso noi in Italia complichiamo le cose. E questo è uno dei casi. Assolutamente sì. Quindi, per le regioni bisognerebbe provare a non complicare. A non complicare e semplificare, quindi macro regione di pianificazione, quello che diceva la Costituzione quando sono nate le regioni. Senta, un'ultima domanda, Presidente Caldoro, reggerà l'accordo Renzi-Forza Italia? No, se si rispettano i patti, regge, se i patti non si rispettano, è evidente che un accordo, quando i due contraenti, in questo caso Berlusconi-Renzi, non rispettano quello che hanno sottoscritto, mi pare che il Presidente Berlusconi abbia detto e chiesto, quindi non c'è stata nessuna lesa maestà, ma solo detto a Renzi rispettiamo i patti. E lei ha l'impressione che si rispetteranno? La sua previsione? Ma fare il Presidente del Consiglio è difficile, quindi credo che si tenterà, visto che deve Renzi rispondere a tante attese anche all'interno del suo partito, a tante spinte che lo portano probabilmente a non rispettare l'accordo. 800 24 00 24, il numero verde, l'SMS 349-238-6666. Prima della pubblicità volevo leggere un messaggio che effettivamente pone un problema a cui non possiamo rispondere in questo istante, ma volevo dire a te, Mario. Enrico dalla Grecia ci dice: non tutti i manager pubblici possono produrre utili, ma solo efficienza. Come premiarli? Misurare l'efficienza. Beh, ci sono degli standard comunque, sì, a livello internazionale, sì. E si può fare anche questo, naturalmente. Mix 24. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. È un anello di déjà. Bella. Bella Pietrangelo. Altro che, bellissima questa canzone. Siccome anche in un istante si può svelare una vita, e siccome il nome di Maria è il nome più vicino alla presenza della Luna, questo gioco dove c'è il mare, dove c'è un uomo che cammina e trova una casa in riva al mare e trova una finestra che si apre dove c'è Maria, è la più bella delle storie d'amore. Mamma mia, chissà se la quota rosa oggi riesce a superare Buttafuoco. Ma... è difficile, oggi è dura. Perché in realtà io sono rimasta molto colpita da una cosa che sicuramente a Pietrangelo piacerà tantissimo. C'è una nuova frontiera della discriminazione, il beautism. Cioè, se sei bella cambia qualcosa sul posto di lavoro, a parte che Belen ha la sua ricetta e la sua risposta. E la sentiremo dopo. Esatto, in Italia pare di sì. Cioè, se una ragazza carina manda un curriculum con una foto, ha il 54% di probabilità di essere chiamata per un colloquio in più rispetto a una ragazza, diciamo, brutta barra bruttina, che invece ha solo il 7%. Ma le università di tutto il mondo si stanno scannando per accaparrarsi questa discriminazione, e infatti in Israele invece dicono no, le ragazze carine sono penalizzate al momento dell'assunzione. Perché? Per l'invidia, perché le manager delle risorse umane sono solitamente donne, single, competitive e gelose. E brutte. No, no, quello no. E beh, se no non si capisce l'invidia. Si dice bellezza nascosta, però una volta per tutte bisogna dirlo. Le donne belle sono sempre le donne più fragili, e quindi bisogna custodire la bellezza. Custodirla molto. Vabbè. Che cosa bolle in pentola? Dopo tutto questo miele, questo politicamente corretto, io non so, mi alzo in piedi e faccio scattare una musichetta, va? Allora, facciamo un quadretto dell'economia mondiale che ci interessa. Proviamoci. Molto, perché oggi noi presentiamo il DEF, documento di economia e finanze, quindi è molto importante. Allora, l'economia mondiale crescerà, ma proviamo a mettere le cose in fila. Oggi a Washington il Fondo Monetario Internazionale pubblica il suo rapporto sull'economia. In crescita nelle economie avanzate, ma ancora con molte incertezze. In Europa nel frattempo, quindi vicino, il governo Emmanuel Valls affronta il primo voto oggi all'Assemblea Nazionale francese. Guardate come le cose cominciano a andare in fila. Il ministro delle finanze francese, Michel Sapin, sollecita il suo omologo tedesco, Schäuble, a prendere misure per far ripartire sempre l'economia. Sempre più collegato. Sempre più collegato. Poi a un certo punto però che cosa succede? Che i tedeschi hanno visto che in febbraio non è che la produzione sia andata così bene, più 0,4, sì, poi a fine anno faranno un buon risultato, ma per ora non ci siamo. Dall'altra parte del mondo, sempre oggi, la Bank of Japan che cosa fa? Continuerà la sua politica di stimoli monetari. 7 trilioni al mese di acquisti di titoli di Stato, che è quello che ha promesso anche Mario Draghi per l'Europa. Tutto torna. Cioè un programma di maxi acquisto fino a 1.000 miliardi per stimolare l'economia. Ma tu mi hai fatto vedere la difficoltà di stimolare l'economia, perché purtroppo siamo la radio, ma mi ha fatto vedere un grafico dell'Ocse. No, ricordando la cosa dell'efficienza, ho cercato uno studio Ocse e c'è una tabella, la raccontiamo quantomeno, che racconta la crescita annuale media del PIL reale dal 2000 al 2011 di svariati paesi dell'Europa. Vabbè, noi e non siamo solo. Gli ultimi è sotto. Sotto lo zero. Sotto lo zero, e tutti gli altri tutti crescono gli altri come una fretta. Perfino il Portogallo è un grande problema. Parliamo, ma questo è il problema. Questo reale. È il problema vero. E questo DEF definitivo? Ma... E questo DEF adesso lo vediamo, deve arrivare nei prossimi giorni, anzi, oggi che sto oggi. Dicendo pure io. E secondo me però ti posso dire, è solo la copertina, nel senso che poi tutti i provvedimenti vanno tutti incardinati e discussi, e saranno anche cambiati alla luce delle cose che abbiamo detto. Quindi il Consiglio dei Ministri stasera darà il via libera a tagli, taglietti circa 6 miliardi. Boccia diceva tagli non lineari ma selettivi. Tu credi che sia vero? Sì, forse sì, forse per una volta. Ma sa, anche sui tagli lineari c'era una leggenda, non è che fossero tutti lineari, in realtà alla ragioneria facevano anche quelli selettivi, diciamo. Vabbè, e questo lo vedremo. A me, ti dico, posso solo dire una cosa, giusto, con principio di cautela, quello 0,8% di PIL messo là mi sembra molto ottimista, però speriamo. Salamini. Povero, povero, povero cavaliere, povero cavaliere. Mario, come si chiamava quel fotografo che lo beccò a Villa Lacertosa nel momento in cui il cavaliere... Zappadu. Zappadu, ecco, sì, lui, bravissimo, riuscì a beccare una foto che racconta un'epoca, una storia, un destino. Il cavaliere sul ginocchio teneva ben tre o quattro ragazze su un solo ginocchio, una scena bellissima. E ora su questo povero ginocchio, invece, su cui si accanisce adesso un malessere, c'è qualcosa, un'infezione, deve accontentarsi di una triade, anzi di un tridente. Una volta aveva le ragazze, adesso su questo tridente c'è la candidatura di Toti al nord, Tajani al centro e Fitto invece al sud. E quindi ancora una volta, povero, povero cavaliere, con questa musica... uno si immagina quella scena, la bella Sardegna, i riflessi di luce e le ragazze, ben 10, tutte su un unico ginocchio. Costa Smeralda, quello lì che si è rotto. Quello rosso. Oggi a Roma facciamo diamo un'informazione di servizio. Oggi a Roma, in previsione della Pasqua, la Galleria Monserrato Arte 900, in collaborazione con l'associazione Nessun Tocchi Caino, ha dato vita a un progetto dove un gruppo di giovani del carcere di Rebibbia si sono impegnati a realizzare una mostra di quadri sulla Via Crucis, che sarà esposta all'interno della chiesa di Santa Lucia del Gonfalone. Ecco, un progetto che merita, lì sarà possibile vederli. Non c'è solo il canzoniere, c'è anche canzonissima. E ci sono gli show televisivi. Che cosa sta succedendo? Qua Doglio e Simonelli, siamo nel loro terreno. Però insomma, Yahoo e Microsoft stanno progettando di farsi e rifare anche loro la TV, compresi gli show. Seguono che cosa? Netflix, Amazon, Yahoo, Google, insomma... Giovanni, i broadcaster tradizionali secondo me sono cotti. Ma se chi non cambiano. Fa contenuti è morto, è molto semplice, lo diciamo tutti i giorni, speriamo però, che si insomma, capisca. Sono tutte produzioni esterne, tutte cioè non riesco a capire. Esterne. Chi ha i diritti è ricco, chi trasmette solo affitta le onde. Sì, ma soprattutto c'è un piccolo particolare, quando questi giganti avranno affinato e messo a punto i loro sistemi, allora, i broadcaster tradizionali cosa fanno? Non lo so, se non si sono declinati su tutte le piattaforme della trasmissione anche loro muoiono. Salamini! Ah, Salamini oggi di recriminazione. Allora, Roberto Casaleggio è ricoverato, sì, poveretto. Sta male. È stato operato, sì. E la Cesaretti, che è una bravissima giornalista del giornale, ha fatto un tweet dicendo: siccome sono civile non mi consentirò delle battute che invece saranno tipiche del mondo grillino, e bisogna dirlo una volta per tutte. Laura è bravissima. Che la stupida e ottusa gogna grillina si è scatenata su una assessore pugliese Guglielmo Minervini, accusandolo di assenteismo cronico, dimenticando un terribile dettaglio, e cioè che Guglielmo Minervini è malato di cancro. No, e canzoniere. Quindi, da lì si capisce che cos'è il livello dell'odio trasferito nella politica. Canzoniere. Sono nata il 9 gennaio 1908 alle 4 del mattino in una stanza dai mobili laccati in bianco che dava sul boulevard Raspail. Nelle foto di famiglia fatte l'estate successiva si vedono alcune giovani signore con lunghe gonne, cappelli impennacchiati di piume di struzzo e dei signori in Panama che sorridono a un neonato. Sono io. Mio padre aveva 20 anni, mia madre 21 e io ero la loro primogenita. Volto una pagina dell'album, la mamma tiene in braccio un neonato che non sono io. Io porto una gonna pieghettata e un berretto, 2 anni e mezzo e mia sorella è appena nata. A quanto pare io ne fui gelosa, ma per poco. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666. Penso che la Tardelli praticamente occuperà tutta la trasmissione. Sì, no, voglio dire, ha sostituito Buttafuoco, si riposa. Io mi guardo le spalle. Uno l'ha già fatto fuori, va bene, vediamo. Però va bene, sai, districarsi nei meandri dell'economia ma più difficile. Ma ci voleva quella voce bellissima per leggere e cantare uno dei libri fondamentali della cultura contemporanea. Vediamo, non dire quale. Se lo indovinano. E che facciamo? Gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Allora, vabbè, questo è il nostro idolo, Gordon Gekko, come sapete tutti, Wall Street, perché? Perché Citi ha raggiunto un accordo con una serie di istituzioni finanziarie per chiudere tutta la vicenda di mutui subprime, spende 1.1 miliardi di dollari per chiudere la faccenduola. Credit Suisse è sotto inchiesta in America per aver aiutato i cittadini americani a evadere le tasse, vedete un po' voi. Vediamo un po', intanto la seconda parte, oggi Marina Milone racconta la storia di Pier Giorgio Frassati, proclamato beato da Giovanni Paolo II nel 90. Il gusto del bello e l'arte, la passione per lo sport, per la montagna, l'attenzione ai problemi della società, non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto. Mix 24. Professor D'Oglio, buongiorno. Oggi siamo molto di corsa, abbiamo 2 minuti e mezzo. Senta, quali sono i mezzi di informazione che hanno invertito il trend del mercato pubblicitario? Se ci sono. Sarà contento il suo editore, sono la radio che è cresciuta di un 5% a gennaio. Bene. E la TV con l'1.6%. Però diciamo sono crescite sempre a fronte di grandi crolli degli scorsi anni. Certo, ma chi tira verso il basso il mercato dei media? Purtroppo sono sempre i quotidiani e periodici, ma soprattutto quotidiani, che anche a gennaio sono fermi al 15,1% in meno. Mm. Certo, rispetto al 21% in meno di dicembre è un miglioramento di 10 punti quasi, però insomma siamo sempre. Ma quindi a parte i quotidiani, però se televisione e radio sono fuori dalla crisi, qualche segnale c'è? Qualche segnale c'è, un segnale piccolo a livello macro, sì. Diciamo, anche perché se gli investimenti pubblicitari riprendono vuol dire che le imprese cominciano a credere di nuovo in un mercato di consumo. È vero che però in Italia soprattutto c'è sempre il rischio che a muovere gli investimenti sia il taglio dei listini, gli sconti. E internet come va? La pubblicità radio televisiva è molto attiva. Internet come va? Internet per la prima volta cala, meno 4,1% su gennaio 2013, ma il dato è che a gennaio 2013 aveva fatto registrare la miglior performance di crescita dell'anno, più 10%, quindi è un calo ma rispetto a una crescita molto forte. Senta, ma sappiamo che sono usciti i dati di bilancio di Mediaset e Mondadori, come se la passano rapidamente? Non bene, c'è anche lì un bel segno meno, molto male Mondadori, una raccolta pubblicitaria a meno 18%, un fatturato a meno 10%, il margine operativo lordo a meno 32%. Meglio Mediaset che ha ricavi complessivi in calo, meno 8%, una raccolta pubblicitaria in Italia quasi a meno 12%, ma il margine operativo è di nuovo positivo, mentre l'anno scorso, l'anno precedente, 2012, era negativo per 235 milioni. Grazie professore. Simona da Napoli per il Canzoniere, rapidamente. Simona, buongiorno. Buongiorno. Allora, Les Mémoires d'une jeune fille rangée, Le memorie di una ragazza per bene. Giusto, Google o no? Google o no? Dica la verità, come, Google come o no? Come? Lo sapeva o l'ha visto su Google? No, per carità, è il libro della mia formazione. Meraviglia! Ma cosa fa lei? Le ha cambiato la vita, sì, che molto, meraviglia! Molto. L'ho letto alle medie, all'epoca noi alle medie leggevamo questi libri. Mi fu regalato insieme con Il lessico familiare di Natalia Ginzburg. Ma, fantastico, ha cambiato. Bene. Adorabile, grazie, è stato un piacere proprio partecipare. Grazie. Belen Rodriguez inizia su Italia 1 Come mi vorrei, un programma che parla di ragazze che vogliono cambiare la loro vita. Ma lei è capitato di cambiare tutto? Beh sì, sono andata via dall'Argentina quando avevo 20 anni, 19 anni, quindi è cambiato tutto, ho preso una drastica decisione. E a parte la scelta di trasferirsi in Italia, in questi anni le è capitato di cambiare? In realtà sono 50% conservativa e 50% rivoluzionaria, perché all'improvviso non mi sento più bene dove sto e cambio, però le cose che mi piacciono me li tengo davvero strette. Belen, che cosa le piace? Mi piace la coppia, io amo la coppia, mi piace tenermela buona, mi piace fare di tutto ogni giorno perché questo binomio funzioni. Come mi vorrei affronta anche le insicurezze e le fragilità dell'anima. Ma quali sono i problemi più frequenti delle ragazze che lei incontra? Allora, premetto che l'aspetto fisico va a influenzare il carattere, fondamentalmente. Quindi se non ci piacciamo, poi alla fine diventiamo insicure, timide. Quindi fanno fatica a credere in loro stesse? Beh sì, quasi sempre. Tu pensa che la fascia di età è dai 20 anni ai 25, quindi è un periodo in cui le ragazze diventano donne. Quindi ci sono un sacco di disagi dettati dall'età, fondamentalmente. Belen, anche lei era insicura a quell'età? Guarda, io in realtà facendo questo grandissimo cambiamento di paese, ai 18 anni sono cresciuta più in fretta. Però quando avevo 20 anni, 21, 22 ero tanto insicura, tanto. Poi io lavoravo nel mondo della moda, quindi di più ancora, perché vai a competere con le più belle, quindi cioè, era la società che ti metteva in confronto e quindi tu facevi il paragone tutto il tempo. Lei è un po' il loro coach, no? Però voglio dire, loro non le hanno mai detto, vabbè, per te è facile dare consigli, sei bellissima. Ma io penso veramente che io adesso mi piaccio molto, quando ero ragazzina non mi piacevo così tanto, quindi facevo di tutto per essere più bella e cambiavo in continuazione colore di capelli, taglio di capelli, mettevo extension, le oil extension, quindi tante cose. E come si è risolta? Mi sono risolta quando mi sono sposata e quando ho fatto un bambino. Lì mi sono messa il cuore in pace. Quando uno diventa mamma diventa più consapevole di se stessa. La bellezza è un valore difficile da gestire? No, non è un valore difficile da gestire, perché comunque è un regalo di Dio, chiamiamolo. E quindi no, in realtà è un vantaggio, non penso sia difficile gestirlo. È un'opportunità. Sì, si aprono altre porte. Belen, secondo lei è arrivato il momento di un vero ricambio generazionale anche in televisione? Sì, secondo me assolutamente sì. Bisogna svecchiare la televisione, assolutamente. Guarda, noi siamo contentissimi di farne parte di questo nuovo progetto, cioè della rivoluzione in Italia 1. Secondo me servono dei format nuovi e gli autori devono essere più giovani. Senti, perché i giovani hanno le idee nuove. Belen, prima lei parlava dell'amore e di quanto sia importante per lei il rapporto di coppia, ma che effetto le fa sapere che appunto un suo ex amore, Fabrizio Corona, adesso è in carcere? Come si vive una situazione come questa? Non fa parte della mia vita in questo momento. No, okay, no, quindi ovviamente sì, però non voglio parlare di queste cose, perdonami. Ah, no, vabbè, ci provo, mi sembrava un'esperienza impegnativa. Sì, però me lo tengo per me. Per lei è una settimana di un debutto dietro l'altro, perché esce anche un suo libro. Ah, è vero, cavolo, non capivo. Che altro devo debuttare, dove? Dica lei. Sì, è vero, esce questa raccolta fotografica. E ne vado fierissima, perché ovviamente avere una proposta del genere ti fa sentire bene e basta, sono contenta. Oggi su Mix 24, dopo il giornale radio, Marina Milone racconta la storia di Pier Giorgio Frassati, un santo laico con una vita ha avuto una vita che continua a ispirare generazioni di giovani. In chiusura Marina Milone ne parlerà con Yash Gavronsky, giornalista, politico e soprattutto nipote di Pier Giorgio Frassati.